国际广播电台 Qui Radio Cina Internazionale。 State ascoltando Radio Cina Internazionale. Amici ascoltatori, benvenuti al nostro programma musicale Ritmi Cinesi. Il qipa è uno strumento musicale a quattro corde nato in Cina almeno 2000 anni fa e spesso definito come il liuto cinese. Con il passare dei secoli, qipa è diventato il più popolare e apprezzato strumento musicale della Cina antica e ha dato origine a innumerevoli varianti di liuto come il liuqin, una versione in scala ridotta del qipa, e il biwa, uno strumento musicale giapponese largamente impiegato nella musica tradizionale. Il qipa è formato da un corpo ligneo piriforme, ovvero simile al frutto del pero, dotato di quattro corde di seta, con un numero di tasti variabile tra 12 e 26. È un manico praticamente inesistente. Veniva suonato pizzicante le corde con un largo plettro tradizionale fino alla dinastia Tang. In epoche successive, invece, si affermò la tecnica di suonarlo con le unghie della dita. Amici ascoltatori, ora ascoltiamo insieme un piccolo brano.